Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Un abuso al giorno. Allora, la mail al quale segnalare i casi: unabusoalgiorno@radio24.it. Nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, abbiamo avuto un grande gradimento, devo dire, di lettere ricevute per il fatto di aver affrontato gli abusi che a volte subiscono i disabili mentali o in ogni caso le difficoltà che incontrano nell'inserimento, nella vita quotidiana o nel lavoro. Stiamo attraversando un po' la penisola, ascoltando difficoltà, problemi, ma soprattutto soluzioni. E oggi ci spostiamo nel nostro girovagare in una splendida città che è Messina, dove non mancano le iniziative interessanti, e di questo quindi noi parleremo con Gaspare Motta, che è il direttore dell'agenzia Progetto del Dipartimento di Salute Mentale di Messina. Buongiorno Motta. Buongiorno. E con Gaetano Giunta, che è il presidente di Ecosmed, un centro di ricerca e azione per l'inserimento al lavoro e nella società delle fasce deboli. Buongiorno. Buongiorno. Allora Motta, io partirei proprio da lei con una domanda a bruciapelo. Quanto i messinesi, quanto la città di Messina agevolano o meno l'inserimento e quindi abusano o meno delle difficoltà che hanno le persone con disagi mentali? Il territorio, diciamo, della provincia di Messina non è un territorio facile, è una realtà del sud dove ben si comprende come il mercato del lavoro e le condizioni, come dire, un po' di depressione anche dell'economia sono tangibili, e quindi c'è una doppia discriminazione che colpisce le persone che vengono da storie di disagio mentale. Fra l'altro, quello di cui noi ci preoccupiamo è che le persone con una storia di malattia mentale molto spesso non è la malattia mentale che percepiscono, ma percepiscono la disabilità sociale che è ad essa collegata. Cioè il fatto in buona sostanza di essere respinti dalla società, di essere marginalizzati, di essere esclusi e di subire questo processo di esclusione a partire dalle situazioni che tutti noi definiamo come dei diritti di cittadinanza, l'accesso a un reddito, il lavoro. Certo, ed allora Motta, le chiedo, il suo dipartimento come si propone attivamente per appunto fare in modo che alcune di queste barriere psicologiche cadano e quindi sia un po' più semplice, più facile, più maturo l'inserimento di queste persone con disagio mentale? Diciamo che dopo la chiusura del manicomio, che qui è avvenuta 10 anni fa, c'è una sensibilità maggiore che è indotta dalla conoscenza che nei territori, nelle comunità si è avuta delle persone, si sono conosciute le persone, i loro volti, le loro storie, e questi volti e queste storie spesso hanno permesso di comunicare e di stabilire delle sinergie fra i vari attori certo, del processo di ricostruzione dei diritti, perché in questo processo non è solo il Dipartimento di Salute Mentale, non è solo il Servizio di Salute Mentale che può offrire soluzioni, le soluzioni le devono offrire insieme, come dire, con una parola oggi un po' abusata, gli stakeholder istituzionali. Certo, e non. Certo. Allora, a questo punto lei ha chiamato in causa proprio, diciamo così, le azioni concrete. Allora, con piacere, io vorrei di questo parlare con Gaetano Giunta, che ho già presentato come presidente di questo centro di ricerca Ecosmed, ma è anche presidente della Fondazione Orcinus Orca, sempre a Messina. Allora, che cosa fa lei nella vita? Io in questo momento, voi mi state telefonando in un'antica fortezza ottocentesca, straordinaria, costruita per l'osservazione dello stretto di Messina, quindi in un posto paesaggisticamente mozzafiato, occupata per oltre 30 anni abusivamente da Cosa Nostra. Beh, va bene, queste qui sono cose a cui siamo abituati in Italia, non soltanto a Messina. Eh sì, che ha... Anche nella ricca Lombardia ci sono decine di comuni dove Cosa Nostra impera. Ma non c'è dubbio, è un problema nazionale. Assolutamente. Qui gestiva una discarica abusiva, nascondeva latitanti e grandi partite di droga. Con un processo di autocostruzione, con cooperative sociali che inseriscono soggetti deboli, lo abbiamo risanato. Oggi è un parco sociale dove ci sono centri di formazione avanzata internazionali euromediterranei sull'economia sociale, dove abbiamo creato un'agenzia di sviluppo di nuova economia libera, produttiva, che è capace di stare sul mercato da una parte e di inserire gli esclusi dello sviluppo dall'altra. Fantastico, parte. Fantastico. Quante persone Ed occupate? È uno spazio accoglienza. Quante persone occupate? Ma in tutta questa rete di sistemi che abbiamo costruito sono oltre 300 le persone che lavorano. Ma pensate alla soddisfazione di aver tolto un bene a Cosa Nostra, ai boss di Cosa Nostra, che possono mettere in conto, come ripeto sempre nelle mie inchieste sul Sole o nelle mie trasmissioni qui in radio, mettono nel conto l'arresto, l'omicidio, l'uccisione, ma non possono mettere nel conto il fatto che qualcuno gli tocchi il portafoglio, perché il portafoglio è il segno del comando. Pensate che bello, delle persone diversamente abili che sono in un bene confiscato a Cosa Nostra, meravigliosa. Guardi, in questo momento sono felicissimo, Giunta. Ci parli di qualche altra iniziativa? Eh sì, per esempio tutti gli arredi di questa realtà, per farne un esempio concreto, tutti gli infissi, sono costruiti da una nuova cooperativa che abbiamo promossa, che nasce dalla relazione di architetti design, artigiani ed ex internati dell'ospedale psichiatrico giudiziario, quindi forse il massimo della marginalità che si possa immaginare. Certo, gli ospedali psichiatrici giudiziari, i famosi OPG, no? Che sono rimasti pochissimi in Italia. Sono pochissimi in Italia, alcuni ora sono stati, diciamo, demilitarizzati, passati alla sanità. L'unico, quello siciliano, purtroppo ancora rimane in carico il Ministero della Giustizia. Speriamo che presto anche questo possa fare questa transizione, certo. Diciamo. E così con questa commessa nasce questa cooperativa sociale, che oggi è una fabbrica semi-industriale di grande qualità che occupa 15 persone, di cui 7 ex internati dall'ospedale psichiatrico. Io la vorrei interrompere un attimo, Giunta, per fare una nuova domanda a Motta, per chiedergli: ma come vanno i rapporti, diciamo così, fra chi dirige o ha compiti di responsabilità nei dipartimenti di salute mentale al sud con i vostri colleghi del nord? Vi scambiate opinioni, vi guardano un po' strani come dire ma chissà che cosa faranno a Messina? Come funzionano i rapporti fra di voi, Motta? No, ma i rapporti soprattutto con chi sperimenta una metodologia simile, con chi ha cura di progetti personalizzati invece che di strutture, perché questo è il cambiamento fondamentale: produrre dei progetti per le persone. Ci sono, noi per esempio teniamo una rete di collegamento con colleghi di tutta Italia, quelli che si riconoscono nel Forum Salute Mentale, che è una realtà, come dire, di confronto e di denuncia anche, che è un interlocutore importante. Mi preme dire che nella storia piccola nostra c'è comunque un segno di collaborazione con queste imprese, come quella di Gaetano, con altre piccole imprese cooperative sociali di tipo B, per fare una impresa più grande, quella impresa sociale che deve mettere insieme proprio più saperi, più competenze, e non essere un'impresa privata. Quindi non c'è la delega da parte dell'azienda sanitaria al privato, ma questa collaborazione, questo mix pubblico-privato sociale è importante motore nella produzione di storie di benessere. Bene, io per le persone. Noi le abbiamo raccolte in un libro, dico 30 prego, secondi, prego. Che si chiama Diritto alla Speranza. L'abbiamo fatto a 10 anni dalla chiusura del manicomio, nel trentennale. Ci dica un indirizzo, una posta elettronica magari presso il quale richiederlo. Edito da Pungitopo, l'editore potrà inviarne copia a chi benissimo, lo vuole richiedere. Benissimo, benissimo. Allora, visto che stiamo dando un'informazione di servizio, questo libro edito da Pungitopo, io do un'altra indicazione di servizio: visitate il sito www. www.orcinusorca.it e troverete veramente delle cose splendide al suo interno. Quindi grazie a Gaetano Giunta, presidente di Ecosmed, per il suo intervento, a Peter Bescapè in regia, a Laura Faggin in studio. Roberto Calulo vi dà appuntamento a domani per un nuovo appuntamento con Un Abuso al Giorno, ma torneremo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, ancora a parlare di disagio mentale. Da Roberto Calulo una buona giornata a tutti.